esce de sero, si muove di notte, c'è Vito con me. Rumori nelle chiamate sgamate, parliamo a rovescio. Passiamo al posto di blocco sfrecciando su 150 cavalli compressor. Ah, e no fra, non voglio finire su una camionetta. Ma è poco il tempo che resta, mi scoppia la testa. Registro sta roba di fretta, faccia da clocker. Nomi segnati sul block notes. Giro nel blocco mezzetto nascosto dentro al sacchetto di Foot Locker. E la fresca in tasca, Milionez fra controlla la piazza. Se il rap fosse un'auto io sarei un Mercedes. Se il rap fosse un'auto saresti una panda. Cerchi 18, no. Passiamo in mezzo ai palazzi, la gente si affaccia di sotto. La gente si affaccia di sotto. C'era quel Mercedes ero nella via. Mi dice buongiorno, ce la farò anch'io. E non è grazie a Dio, no, chiedilo a Vito. Prego il Cristo di Rio stare pulito. Giro sul Mercedes ero nella via. Giro sul Mercedes ero nella via. Giro sul Mercedes ero nella via. Nella via, nella via, nella via. Mercedes nero 24 ore. Ho una maglia rossa la flore. Una maiala mi costa parecchio. Fra la mia troia mi porta rispetto. Te do a casa vi ci mando con le rime nuove. La TV non la guardo, non ho il decoder. Capi direzione, va a ripararti da tafferugli la sera. Flow francese per le cede smernera. Strafogati e pasti, siamo ben serviti. Arriviamo al party, siamo ben vestiti. Baci, baci, uomo, affanculo. Capizzarri, la scena in auto. Passo dai ragazzi e Formula 1. Quelli dei palazzi a forma di cubo. Noi crash test non lo facciamo. Se c'è Vito su un'auto, la lancetta del contagiri. Non conta chi li cambia portato. C'era quel Mercedes ero nella via. Mi dice buongiorno, ce la farò anch'io. E non è grazie a Dio, no, chiedilo a Vito. Prego al Cristo di Rio di restare pulito. Giro sul Mercedes ero nella via. La gente si affaccia di sotto se passo sopra il mio Mercedes. Manette che spacco biscotto le lancio su 147. Bastardo che insegue, non gusto mai come l'ando le cene. Bombarda i live non puoi farmi vedere. Tanto oramai tu puoi farmi le sighe. Sto con bandane riunito tra capsule nere. Fra macchine vero non chiacchiere beve. Le chiacchiere con tale chi se le beve. Chi si beve altro se sto cadendo dal lato. Forse perché ci abito anche il bimbo magico cresce. Chi dal limbo tragico ne esce come un immortale. Spese, negro fai che c'ho l'assetto. Per sta roba vedrei giusto giusto fra un annetto. Per la droga perso molto più del tuo rispetto. La mia colore a mente per non stecco sul diletto. I 190, ma metti che quasi campa. I miei proiettili sulla gamba. Insegno mettili a fa condanna. Insegno mettiti a fare danza. Giro sul Mercedes nero nella via.